Che c'è da ridere? Si sono viste ben altre stregonerie che far suonare un disco con un dito. Oh. Cosa ha fatto sto ragazzo fino qua? Ed è già la seconda volta. Cosa ha fatto sto ragazzo fino a qua? Sarebbe già abbastanza così, ma non è finita. La barra? Barra? La famosa barra. Che cos'è, scusa, la barra? No, perché che cos'è la barra? Non ti capisco, barra pizzata. Uno non deve essere intelligente, la musica è per tutti. Vai, annichiliscilo. I furbi, gli scemi. Da solo, con me sto parlando, come un matto. Sono stufo di stare nella merda, ci vediamo domani. Are you ready? And the knife says, you know I feel alright. Signore e signori, buonanotte.